Buongiorno, prima di tutto grazie di essere venuti nonostante il caldo e resistendo alla tentazione di buttarvi nel lago, tentazione difficile da superare oggi. Riuscite a sentirmi chiaramente? Ecco, se no me lo dite perché non so mai regolare bene il microfono, grazie. Allora, siamo venuti per un incontro con una scrittrice, prima di tutto, Elvira Donnes, ma anche con una persona. Ho sempre pensato che quando si incontra un autore ci sono due motivi fondamentali. Uno è abbiamo letto un libro o tutti i libri e vogliamo vedere chi è dietro a questi libri, perché è un punto, diciamo, fermo nella critica letteraria o nella letteratura il dire che un'opera una volta scritta ha una vita sua. Dunque poi la gente la interpreta, la analizza e in fondo vive anche senza più lo scrittore dietro, ma c'è una curiosità per conoscere lo scrittore. E l'altro motivo invece è di incontrare una persona e poi, poiché la persona incuriosisce e piace, interessa, si vanno a leggere i libri. Questo è stato ad esempio il mio caso, nel caso di Elvira Donnes, perché in effetti siamo stati presentati da conoscenti comuni. E dopo averla conosciuta, ho deciso di leggere i suoi libri e l'ho fatto con enorme piacere. Allora, Elvira Donnes, i soggetti di cui parlare con lei sono molti. Volevo dirvi già fin dall'inizio, mi faranno piacere qualsiasi domanda del pubblico, perché l'incontro è soprattutto con voi. Quindi, per favore, chiunque abbia una domanda, chiunque abbia... lo segnali, alzi la mano, si senta libero, siamo in pochi e direi che questo è solo un vantaggio. Elvira Donnes nasce a Durazzo, cresce a Tirana, a 16 anni inizia a condurre dei programmi televisivi, diventa molto molto conosciuta nel suo paese, è una giornalista che si occupa fondamentalmente di cultura. Nell'84 si laurea in lettere inglesi e albanesi all'Università di Tirana. Poi nell'88 lascia il suo paese e si stabilisce in Svizzera. Si sposa con uno svizzero e comincia a pubblicare una volta che è in Svizzera. Ora forse bisogna un po' mi permetto di usare questa brevissima biografia per diversi motivi. La prima è che Elvira Donnes comincia a scrivere in albanese e viene tradotta, scrive molti libri, tra cui però vengono tradotti in italiano Senza bagagli già nel 98, poi Sole bruciato nel 2001, Bianco giorno offeso nel 2004, Mario ovunque nel 2007, poi non so bene, lo chiederemo, succede qualcosa e decide, nonostante viva in quel momento negli Stati Uniti, di scrivere in italiano. Dunque abbiamo una persona che in fondo è un fenomeno, credo, quasi unicamente del nostro tempo. Una persona che parte in una lingua, scrive in una lingua e poi cambia la lingua di scrittura, considerando che per un autore la lingua di scrittura è fondamentalmente legata al proprio intimo, no? E in italiano scrive due libri, di cui uno ha avuto un successo incredibile. Nel 2007 scrive Vergine giurata, credo che fosse quello che voi avete letto. Ne parleremo poi più in dettaglio, la storia di queste donne che secondo il costume albanese, restando le uniche donne spesso nella famiglia e non avendo alcuna protezione in quanto donne, non volendosi sposare obbligatoriamente con qualcuno che magari non amano, non approvano, non sanno chi possa essere, decidono di restare vergini e giurano di diventare uomini. Ora ne parleremo poi, si tratta della legge tradizionale. E questo libro ha avuto un successo incredibile, tradotto in tantissime lingue, è diventato un film e ha dato anche seguito a dei documentari che Elvira Donnes, che è anche una documentarista molto conosciuta, che ha lavorato per la radio della Svizzera, per la tele della Svizzera italiana, dei documentari su questo argomento. E poi l'ultimo pubblicato in italiano, anche questo, Piccola guerra perfetta, che è un libro su delle donne che affrontano la guerra nel Kosovo nel momento in cui c'è al massimo la repressione di Milosevic, dunque la repressione serba, e nello stesso tempo l'inizio dell'intervento americano, non solo l'inizio ma tutto l'intervento americano. Allora, vorrei fare parlare lei, però i temi con cui si può parlare, di cui si può parlare con Elvira sono veramente tanti. C'è il tema sicuramente della libertà, nasce, Elvira è nata in Albania, ancora sotto la dittatura di Enver Hoxha, e chi di voi è giovane forse non ricorda o non conosce così bene, è stata una delle dittature più dure dell'Europa dell'Est. Enver Hoxha poi, dopo la destalinizzazione, resta uno dei pochi stalinisti, litiga con Khrushchev, litiga praticamente con Tito, ovviamente litiga con tutti tranne che coi cinesi, ma fondamentalmente anche perché erano lontani, e chiude completamente il paese, lo chiude al punto che fa costruire qualcosa come 500.000 piccoli bunker in cui la gente avrebbe dovuto entrare, due o tre persone per bunker o anche solo uno, e sparare a chiunque avesse invaso l'Albania. Si immaginava che l'Albania sarebbe stata invasa immediatamente, ed è stato uno dei regimi più oppressivi. Poi, quando lui muore, e muore solamente nell'85, Ramiz Alia, che è il suo successore, tenta una piccola apertura, ma non ce la fa, fondamentalmente fino a molti anni dopo, verso il 90, credo, no? Non so se è giusto. Fino alla fine del 90. Allora, io ho una prima domanda, che questa nasce dal fatto che appunto Elvira è di Durazzo, città sul mare, città che fino al 1500, prima che arrivassero i turchi, ha parlato un dialetto che era spesso a metà tra il veneziano e il croato, dunque una città molto legata a Venezia, molto legata a tutto quello che erano i grandi commerci del Mediterraneo, e che quindi ha un legame lei stessa col mare molto molto forte, e che risalta nei suoi libri. Vorrei chiederle che cos'è per lei il mare. Buongiorno prima di tutto. Grazie. E che cosa è la libertà? Grazie Maria Emilia, perché lei si è preparata su di me, io invece non ho fatto niente questi due o tre giorni. Cos'era il mare? È difficile spiegare in un certo senso, perché sono passati molti anni. Io praticamente ho passato 28 anni in Albania e sono adesso quasi 28 anni che ho vissuto fuori dall'Albania. Quindi sono albanese, ma sono svizzera, poi ho vissuto per 11 anni e mezzo negli Stati Uniti, per cui sono un po' un conglomerato, sono un miscuglio di, nonostante la mia identità albanese è forte. Per spiegare cos'era il mare per noi bisogna ritornare alla dittatura, cosa che oggi le nuove generazioni in Albania, i giovani, non sanno, perché chi è nato nel 90, nel 92, nel 95 non capisce oggi stesso i suoi genitori. C'è un divario generazionale talmente forte, noi eravamo nati e cresciuti sotto la dittatura, per cui il mare era la libertà. Era la libertà per me personalmente, perché ero nata sul mare, proprio letteralmente a 60 metri del mare c'era ai tempi la maternità. Che hanno poi spostato, adesso hanno rovinato del tutto, ma comunque poi spostati i miei genitori a Tirana, la capitale, che è molto molto vicino da Durazzo, si tornava al mare perché il mare, dall'altra parte del mare c'era l'Italia, e non c'era quindi una restrizione, perché i confini erano tutti chiusi, le dogane erano invalicabili. Non si poteva nemmeno andare su un confine in Albania e guardare dall'altra parte, perché si sapeva che le guardie ti guardavano e venivi registrato. Per cui il mare non aveva, alla fine un soldato con il fucile. Poi se provavi a attraversarlo, naturalmente venivi falciato, venivi morto, morivi in quel mare lì. Ma era l'orizzonte, appunto, il cielo e il mare che si univano. E allora lì che potevi sognare. E per quello è stato per me. Sono stata una bambina indottrinata dal regime per molti anni, ovviamente eravamo tutti così, i miei genitori erano membri del Partito Comunista, non potevi non esserci, non c'era una scelta. Ma nello stesso tempo, quando ho cominciato a capire, attorno ai 17 anni, non prima, quando studiavo l'italiano, studiavo il francese, studiavo l'inglese, però i libri non li trovavi e tanti autori erano proibiti. Allora ho cominciato a farmi le prime domande, ho cominciato a vedere ragazzi e ragazze che sparivano da scuola di punto in bianco perché la famiglia veniva condannato e andava al confino, quindi lavori forzati. Quindi quando ho cominciato a farmi delle domande, in casa ti si diceva controlla la parola, perché ogni parola era il pericolo di una delazione e finiva tutta la famiglia, il padre di famiglia finiva, mio padre finiva in prigione e noi finivamo in un campo di lavoro. Quindi era il buco nero dell'Europa, l'Albania è stata la dittatura più feroce. Per cui ecco, per dire cos'era il mare per me era il sogno, ma nello stesso tempo la libertà a volte di parlare al mare, di dire al mare quelle cose che dentro in casa non le dicevi perché ti dicevano no, guarda che non ti deve scappare niente fuori. Però nello stesso tempo andavi a scuola il giorno dopo e neanche con la migliore amica ti potevi confidare che tu la pensavi diversamente su questo o quell'altro, oppure facevi delle domande che erano scomode. Per cui il mare era in un certo senso il cassaforte, era il cassaforte dei sogni, era quella libertà, quella gente dall'altra parte che non potevamo vedere, ecco. A proposito di cassaforte dei sogni, mi permetto, se sei d'accordo, sì, di leggere un pezzo proprio dell'inizio, una delle prime pagine di questo libro Senza bagagli, che è un romanzo, ma che ha elementi autobiografici. Il mare era rimasto uno di quegli amori che fanno male anche quando li hai vicino e ti mancano anche quando li tieni tra le braccia. Per anni era venuta a incontrarlo ogni domenica. Gli aveva perdonato la furia quando l'aveva trovato che sbuffava e tollerato la freddezza altre volte. Poi aveva riversato in lui tutti i suoi pensieri nascosti, senza che le importasse se l'altro aveva voglia di ascoltarla oppure no. Gli aveva rubato l'intimità delle ore tarde e delle albe innocenti. L'aveva forse infastidito. Poi l'aveva amato ancora e ancora. Per decine di volte gli aveva parlato senza voce. In altri giorni e notte gli aveva gridato pensieri con tutta la sua forza, come per scavare nelle sue mobili profondità un'irremovibile galleria di suoni e frasi. Aveva pensato che era giusto quello che faceva perché forse a volte il mare sentiva la sua mancanza. Aveva nostalgia di quella donna e così, in quegli attimi di struggente nostalgia, avrebbe potuto estrarre da sott'acqua la sua voce depositata lì con cura. L'avrebbe fatta emergere così, bagnata nella calda superficie. L'umidità avrebbe evaporato e allora le parole avrebbero suonato con il loro vero colore. Gli avrebbero fatto compagnia nei momenti di solitudine. Era solo il mare. E c'è in fondo un po' questa dualità tra l'anima che è sola quando non può esprimersi con nessuno perché non può fidarsi di nessuno e il mare che diventa un deposito dei propri pensieri, ma che è solo anche lui, anche il deposito non può comunicare, cioè comunica solo con se stesso. In parte, no? Sì, certo, eravamo tutti soli in un certo senso. Sì, una società dove ci si appoggiava moltissimo alla famiglia, come in tutti i Balcani, ma non soltanto, ovunque, ma soprattutto in paesi come i nostri, la famiglia era il nucleo, la cosa più forte che avevi, ma nello stesso tempo anche dentro la famiglia, per paura di non fare male al prossimo, eri solo, soprattutto se eri fatto diversamente, se eri una persona che continuava a credere nel regime, era un conto, ma se cominciavi ad avere grilli per la testa da bambina, da giovane, da studentessa all'università e poi oltre, allora questo chiudere la bocca, questo tenere ogni cosa dentro di sé creava una solitudine anche con le persone che tu avevi vicino. Sì, all'inizio proprio si racconta della protagonista che va col bambino in autobus e il bambino chiede, sapendo che la madre ha studiato inglese, conosce la letteratura americana, la letteratura inglese, chiede mamma cosa preferisci, la letteratura, non so più se la letteratura o l'Europa o l'America, è un bambino di 6 anni, dunque trancia, e la madre lo sgrida come se da noi uno dicesse mamma guarda com'è grassa quella signora lì, no? Che la mamma dice no, non si dice, non dirlo, e la madre lo sgrida, cioè c'è in fondo un'educazione alla menzogna che è protettiva, sì, verso il bambino. Nello stesso tempo un modo di passargli, secondo me, almeno nella mia percezione, un po' la verità, a un certo punto questa mamma che dovrebbe andare a fare il lavoro obbligatorio in campagna la domenica rischia di venire poi multata dal partito, guardata male, per portare il bambino al mare, perché l'unica cosa che gli può passare di libertà è questo valvola di sfogo, puoi sempre andare al mare. Quando sono al mare il bambino chiede Clea, dunque la protagonista, entrò in mare tenendo il figlio per mano e cominciò a giocare con lui. Quanto è grande, ma quanto è grande il mare, più grande di tutto il mondo. Quanti anni ha il mare? Clea lo baciò e cominciò a nuotare sul dorso. Te la senti di venire al largo con me? Come no? E di nuotare sul dorso? Anche di nuotare sul dorso. Anche di tuffarti dal trampolino? Anche di truffarmi dalla cima del mondo? Cosa credi? Io che sono un fifone? Allora dai, nuota fino a qua dove sto io. Vieni tu da me. Il piccolo si sforzava di dare allo sguardo un'espressione disinvolta. Mamma, quali ti piacciono di più, i film coi partigiani o pure i film del cinema quelli stranieri? Nuota, disse Clea, è inutile che perdi tempo con le parole. O hai paura di nuotare fin qui? Tony immerse la testa sotto un'undicella e spinse il corpo in avanti. Non ho paura, lo giuro su di te. Ma dove non tocco mi annoio, qui dove mi trovo è più bello. Nuotarono, poi si stancarono e andarono via. Nuotarono di nuovo, poi si stancarono e si stesero sulla sabbia che scottava. Dunque questa immagine, il bambino anche in acqua ha delle domande inopportune, ha delle domande che deve imparare a non fare, e la mamma gli dice nuota, cioè trova un altro spazio per le tue domande, no? Sì, quello è un libro autobiografico in gran parte, poi ovviamente è un romanzo, ma comunque ha spiccate note autobiografiche, per cui quel bambino è il mio figlio, è il mio bambino. Aveva, oggi ha 35 anni, è un ragazzo svizzero, è venuto in Svizzera che aveva 10 anni, ma lui ti bombardava di domande e io andavo indietro nella mia infanzia, nella mia prima giovinezza, quando mio padre si trovava nella stessa difficoltà con me, perché io bombardavo di domande estremamente pericolose di cui lui non poteva assolutamente rispondere. Io con mio padre mi sono confidato per la prima volta e lui si è aperto per la prima volta quando io ho avuto 18 anni e mezzo. Quindi mio figlio sì, faceva queste domande, per esempio: mamma, cosa ne pensi? È meglio il nostro leader, che era il successore del dittatore Hoxha, o Gorbaciov negli anni della perestroica? E tu cosa dici a un bambino di 5 anni e mezzo? Sei in una difficoltà terribile tra la voglia di parlare, ma è troppo piccolo, e nello stesso tempo di dire una bugia che non sia una bugia atroce. Per cui era sempre un camminare sulle uova. Per i nostri genitori era così, per noi, come ho detto prima, perché non vorrei ripetermi, con gli amici era la stessa cosa. Quindi i bambini erano, come ha detto Maria Emilia prima, i bambini erano insegnati, li avevano insegnati, ci insegnavano di guardare la parola, di guardare, di addirittura di osservare il the body language, il movimento del corpo, il linguaggio del corpo, perché potevi tradire qualcosa. Quindi era difficile da una parte, molto difficile, dall'altra parte ci aveva dato, come ha scritto poi una volta un bravissimo, struggente poeta albanese che poi è morto, giovanissimo, a noi che diceva, a noi, aveva scritto da qualche parte, sto traducendo in maniera molto banale, a noi che ci è tolto anche il respiro, almeno abbiamo sognato. I più ribelli di noi sognavano tantissimo, tutta la gioventù sogna, ovunque, ma per noi proprio quel muro, quel gulag a cielo aperto era una cosa da sfidare assolutamente, per cui passavamo per esempio Drei Kameraden di Erich Maria Remarque in 5 amici, per 4 giorni un libro, perché qualcuno l'aveva fatto entrare, contrabbandare nel paese. Allora di nascosto tu hai 8 ore per leggere questo libro, poi l'altro ha 8 ore, cioè crepavi leggendo il libro perché dovevi assolutamente darlo all'altro. E questo ci aveva dato una grandissima forza nel sfidare in silenzio, perché apertamente non potevi farlo, non è che andavi di mezzo soltanto tu, facevi male a tutta la famiglia, distruggevi una famiglia intera e anche tutto il parentado. Per cui hanno cercato di di lasciarci dentro in una quella scatola, e fisicamente ci hanno lasciato, e il paese ha subito un enorme, enorme danno, perché 5 secoli di dittatura sono una cosa che nessun libro mai riuscirebbe mai assolutamente a veramente racchiudere, raccontare. Cinque decenni. Quindi sì, cercavi di toccarlo con mano la libertà, ma tramite quello che leggevi, tramite quello che riuscivi a sognare, quello che osavi a volte di sognare, perché anche il sogno, anche quello era pericoloso a volte. Ma questo ha portato, almeno è credo sia un po' una curiosità legittima, da noi in fondo l'importanza della letteratura è una cosa quasi un po' di nicchia, è abbastanza sottovalutata. Questo invece non ha portato al fatto che la gente ha capito di più l'importanza dello scrivere, ho capito, cioè c'è un rapporto differente poi con quello che è la letteratura, gli scrittori, il fatto di avere avuto sete di letteratura, in qualche modo, sete di poter esprimersi. Ma perché voi la libertà l'avevate. Sì, e quindi l'abbiamo disprezzata, non gli diamo il peso che ha, forse. Ma noi poi ai tempi di oggi si lamenta giustamente che si legge meno, appunto, in questo mondo, nell'era di internet, che ha dato tante cose, ha tolto altre cose, cui possiamo entrare in tutto un altro discorso, ma si legge meno in generale, mentre per noi un libro era una cosa non urlata, non andavi in piazza a dire io la penso diversamente, a me mi va il cuore in gola e non ce la faccio a raccontare bugie tutti i giorni, a sentire bugie tutti i giorni. Quindi la letteratura aveva proprio il sapore della libertà, tant'è vero che io torno spesso in Albania, sia per questione di lavoro, ma anche perché ho ancora la mia mamma e mio fratello e tutti gli amici, e sono rimasta vicino al paese, anche molto molto attivamente per certi versi. Per cui vedere oggi i giovani che sono diventati, l'Albania adesso è un paese in transizione, molto molto vivace nel bene e nel male, con grossi grossi problemi in tutti i sensi, che siano politici, economici e via discorrendo, e questa transizione di 25 anni sta durando troppo, e non il paese ancora non ha creato una sua maturità democratica soprattutto. Però oggi non leggono. I ragazzi albanesi è Twitter, è l'Instagram, è Snapchat, è Facebook, è tutto quello che poi l'Occidente ha portato, e che gli albanesi, affamati di vedere cos'era l'Occidente, l'hanno preso non soltanto con le cose buone, ma specialmente con le cose più negative, in un certo senso. Il consumismo in Albania, io che ho vissuto per 11 anni e mezzo in America, vedo una specie di capitalismo estremo, ecco, senza moderazione. Hanno preso questo modo di far vedere, lo show off, la macchina più grande, la casa più grande, le facce che non sono più facce, perché vedi ragazzine a 25 anni che sono piene di Botox, ma perché è così che si fa in Occidente, perché è così che è questa l'immagine che hanno avuto. E leggono poco e soprattutto non conoscono il passato vicino del appunto il background, la storia dei loro genitori, cosa voleva dire vivere in quella maniera. Adesso che hanno tutta la libertà, in un certo senso, non tutti, ma la tendenza è di sprecare la libertà. Ecco. Ecco, questo per me è una cosa interessantissima, anche perché l'Albania è stata soggetta, in particolare per quello che concerne le donne, l'influenza è stata ancora più forte, ma in generale è stata soggetta a un regime estremamente duro politicamente per molti anni, chiuso come sistema, e totalitario e totalizzante. Però nello stesso tempo aveva una tradizione, il Kanun, che poi ci spiegherai meglio, spero, che è una legge scritta medioevale, una legge orale, non necessariamente scritta, medioevale, che regolava il funzionamento della società. Siamo in una società clanica, come, oddio, anche il Ticino è abbastanza clanico, però in un modo diverso, come la maggioranza delle società di tutto il Medio Oriente anche. E in questa società clanica il valore della famiglia, il valore della persona, il valore dell'individuo, che in fondo a noi viene dal Rinascimento fondamentalmente, Non ha senso, il valore è quello della famiglia, del clan, perché se il clan non è rispettato, nessuno è protetto nel clan. Quindi la pressione di tutto un clan verso i suoi membri è fondamentale. Non c'è una scelta individuale che può essere staccata dalle conseguenze che può avere su tutto il clan, no? E questo colpisce in particolare le donne che avevano ovviamente una funzione soprattutto nelle montagne, perché ovviamente c'è un'enorme differenza tra essere a Tirana, tra essere a Durazzo, tra essere nelle pianure dove c'era anche un altro tipo di comunicazione e essere chiusi nelle montagne del nord, quelle che confinano col Kosovo, con la Macedonia, eccetera. E le donne sono in fondo quelle che più soffrono di questa tradizione. E poi racconterai di più, perché questo è il tema del libro forse più conosciuto, ma non necessariamente l'unico da leggere, anzi gli altri anche assolutamente, ma questo si tratta di una ragazza, ve lo riassumo molto brevemente senza dire come la cosa si svolge, una ragazza che si ritrova da non avere nessun parente maschio, perché l'unico parente era uno zio che sta morendo, che è anziano, e decide in seguito a un tentativo di stupro, decide di diventare un uomo. Questo era previsto dal clan, dalla legge tradizionale albanese. E vi leggo solo questo prezzo, oltretutto mi sembra anche molto, molto particolare, molto bello. Il ricordo, dunque lei con un camion era andata a cercare delle medicine in città per lo zio che sta male e al ritorno c'è un tentativo di stupro. E lei dice, il ricordo è ancora vivo, il terrore che ha provato, la notte trascorsa nel bosco battendo i denti nell'atroce timore che, sfuggita a un uomo dai pantaloni slacciati, ne sbuchi un altro da qualche altra parte fra gli alberi. Non era riuscita a chiudere occhio, aveva puntellato il buio con lo sguardo. Se qualcuno le si fosse avvicinato, si sarebbe ammazzata. Aveva tenuto il coltello appoggiato al cuore, che non aveva smesso di battere forte. Aveva avuto fame, si era arrabbiata, aveva invocato sua madre con quel nome tanto buffo, la madre è morta. Felicità, si chiamava Felicità la madre. Aveva cercato il padre, il cui volto non riesce più a ricordare. Aveva pregato ancora Dio e l'aveva fatto tra lacrime mute, quel Dio bandito un anno prima che Hannah nascesse. Bandito perché il regime lo aveva proibito e di cui Felicità le aveva sempre parlato di nascosto. Era riuscita a non morire congelata. All'alba era scivolata per le viuzze di Ragne, senza farsi vedere, protetta dalla neve. Al rientro nella culla era diventata un pezzo di roccia, la tomba di se stessa. Era diventata un uomo. Onore a te per ciò che hai fatto, non la smettono di ripetere nei mesi seguenti gli ospiti che vengono a trovare Giorgi, che è lo zio. Che è Giorgio, poi in Giorgio, italiano, sì. È lo stesso nome. Lui è fiero di lei. Glielo si legge negli occhi, che non si arrendono a morire, e nel modo in cui allunga Hannah la bottiglia della grappa. Giorgi, adesso hai un maschio e l'onore della culla non morirà. La culla è, credo, la fattoria, no? La casa. Hannah, la ragazza, impara a fumare con loro, puzza come loro, imita la loro risata e ingrossa la voce. La gola e le costole le fanno male. Tutte le montagne maledette ormai sanno che la figlia dei Doda è diventata un uomo. Allora forse... Ecco, necessita proprio un piccolissimo inciso su cos'è e perché le vergini giurate, sì, nel nord dell'Albania. Maria Emilia ha menzionato prima il Canon, che non è nient'altro che una raccolta di leggi consuetudinarie usato soprattutto nel nord dell'Albania per 6 secoli. I primi casi di vergini giurate sono state segnalate da un antropologo serbo ai tempi, nel 1482, se non erro. Cos'era il Canun? Appunto, il Canun regolava la vita economica, sociale, di costume di tutto il nord dell'Albania, che è sempre stata la parte più impervia del paese, dove essendo l'Albania un paese piccolo, dove ogni stivale straniero è passato su quel fazzoletto di terra, al nord però non è mai riuscito a penetrare come si deve, perché sono Alpi molto alte, vallette, valli molto strette. Quando vado in Val Verzasca, ma anche in Val Bavona, me lo ricorda moltissimo in un certo senso. Quindi il Kanun è molto complesso, non è bianco e nero, ovviamente se non si conosce abbastanza bene, io l'ho studiato molto bene perché mi intrigava moltissimo, ha regolato appunto laddove non c'era un governo, laddove non c'era uno Stato, ma anche dove non si voleva che entrasse l'occupatore a gestire il paese, si autoregolavano. Naturalmente, essendo una società estremamente patriarcale, la donna era messa all'ultimissimo gradino della società, per cui da donna non avevi assolutamente nessun diritto. Il marito, il padre, quando ti dava in sposa, ovviamente i matrimoni erano tutti combinati, ma questo non soltanto in Albania, per carità, andiamo in Sicilia, andiamo in Sardegna, andiamo ovunque, poi Cina, Afghanistan, andiamo, sarebbe un discorso molto lungo. Nei matrimoni combinati si davano allo sposo due pallottole. In caso la sposa disobbedisse oppure lo disonorasse, lui aveva il diritto di ammazzarla. Ma dove metti il confine qui? Cioè, la può disobbedire perché un giorno non gli ha fatto un buon piatto da mangiare, oppure perché ha fatto chissà che cosa? Quindi la donna è sempre stata estremamente vulnerabile. Da lì sono nate le vergini giurate. Sto banalizzando, sto stringendo per non tediare, appunto. In un matrimonio combinato, molto spesso, già quando eri in pancia della mamma, avevi il diritto non avevi nessun diritto, bensì di obbedire. Se a 14 anni, a 15 anni, poi dovevi sposare l'uomo che ti era stato dato per marito già quando eri in pancia, tu avevi soltanto una strada: o sposare quello lì, o dire al padre, guarda papà, perché non potevi neanche disonorare il padre e non potevi neanche mettere tutto il grande clan in faida di sangue con la famiglia dello sposo. Quindi dicevi, io voglio diventare un uomo, stare con te, aiutarti nei campi ed essere il tuo braccio destro. Questa era una via di uscita. Certo, se lo vediamo oggi, il XXI secolo, in Svizzera, in Francia, in Germania e via discorrendo, diciamo, ma che obbrobrio, che lo è, in fondo lo è. Però se andiamo indietro e lo piazziamo in quel milieu storico e sociale, per loro è stata una specie di liberazione, perché volevano la libertà. Un altro motivo era ancora più pragmatico, era una questione economica. Visto che la donna era la linea del latte, veniva chiamato, mentre l'uomo era la linea del sangue. Quindi la linea del sangue era quello che ereditava le terre, che poteva fare scambio commerciale con chiunque. La donna non aveva questo diritto. Quindi nel caso un padre avesse 5 figlie femmine, per esempio, e con la sua morte ogni cosa, ogni possedimento suo andava ai suoi fratelli, quindi del padre, la vedova con le figlie perdeva ogni diritto, quindi diventava, e sappiamo, un po' come l'India, anche in India, cioè, quelle donne o vengono messe al rogo poi con l'uomo o finiscono come finiscono. Quindi il padre stesso trovava la ragazza che era più forte, che lui pensava che era quella che poteva far fronte ai lavori di casa, e le assegnava il ruolo del maschio. Da quel momento quella ragazza perdeva ogni diritto di amare, di sposarsi, di far l'amore o il sesso, di procreare, bensì diventava un uomo, cioè guadagnava da una parte e ne perdeva tanto dall'altra, perché da uomo poi si vestiva da uomo, prendeva il fucile, beveva da uomo, fasciava il seno e tutti gli uomini lo rispettavano come uomo, nonostante tutto il villaggio sapeva che quello era una donna. Quindi il rispetto da donna era zero, il rispetto da uomo era enorme. Ora, possiamo parlare per ore e ore, è molto più complesso anche di così, ma questi erano i due motivi principali perché queste ragazze, che poi il voto di castità si faceva all'età di 14, 15, 16 anni. Alcune di loro l'hanno voluto perché erano le più ribelli, perché volevano respirare, perché non potevi uscire dal villaggio se non eri accompagnato dal padre, dal fratello, non avevi assolutamente nessun diritto. Alcune di loro, appunto, una voleva giocare, l'ho incontrata poi dopo di aver scritto il libro, dopo di aver consegnato il libro all'editore. In un certo senso la scrittrice in me era contenta con il libro, ma la giornalista no. Per cui sono andata in Albania e ho cercato di incontrarle e fare poi un documentario su di loro, cosa che feci. Ma una di loro mi disse, io volevo giocare a calcio. Non ce la facevo a stare sempre lì con papà che mi guardava addosso. Un'altra mi ha detto, lo sai perché l'ho fatto? Perché... come dite voi adesso, come dite voi in Occidente, io ero avanti al mio tempo, io ero davanti, io vedevo tanto, un uomo che mi pigliava per i fondelli, un uomo che mi menava per il naso, no. Ecco, queste sono le vergini giurate. Io in tanti miei libri mi sono piaciuti, mi sono interessati molto gli angoli bui dell'umanità in un certo senso, quei destini... inchiodati senza via d'uscita in un certo senso, e rompere quel cerchio è una cosa allucinante, cosa che poi ho voluto fare anche negli Stati Uniti con altri temi sulla pena di morte, per esempio, sul traffico umano e via discorrendo. Quindi le vergini giurate, visto che ero venuta a sapere quando avevo 16 anni, mi era rimasto lì il tarlo, volevo sapere di più. Sotto il regime ovviamente non se ne parlava, si sapeva che c'erano, ma il nord e il centro dell'Albania erano due cose totalmente separate. Al nord per noi erano i primitivi, quindi il regime comunista le ha lasciate lì perché non facevano nessun danno, però erano quelle donne un po' le strane, ecco, non facevano danno, erano lì. E noi non viaggiavamo ai tempi, non c'era il turismo, non avevi il diritto della macchina, io avevo una bicicletta cinese a una marcia sola. E quando sono venuto in Svizzera, poi quando ho fatto la patente, all'inizio andavo con una disgraziata a 160-170 all'ora, finché mi è uscita un po' quella, perché era la libertà, la macchina proprio era una cosa. E allora in anni e anni e anni ho cercato di trovare documentazione su di loro, in parte l'ho trovato, in parte no. Poi ho trovato il libro di una bravissima antropologa inglese, Antonia Young, che aveva scritto Sworn Virgins, donne che diventano uomo, Women Who Become Men. E da lì poi avevo completato il libro, vado al nord, le incontro con grandissima fatica e decidono di rilasciarmi le interviste, poi ho fatto un documentario su di loro. Queste erano le vergini giurate, non c'è mai stato un censimento serio, non c'è mai stato una vera e propria ricerca su suolo albanese fatto né sotto il regime, men che meno adesso che sono cambiate le cose. Sono rimaste in vita una trentina di loro, io ne ho incontrato un 14-15 di loro, ed è una tradizione che va scemandosi ovviamente, grazie a Dio, perché ormai con la modernizzazione del paese non c'è più quel potere dell'uomo sulla donna. Un milione e mezzo di albanesi hanno lasciato l'Albania, quell'immagine, immagino che tutti l'avete in mente, quelle navi bibliche quasi che si sono riversate sull'Italia. Per cui cambiando il tipo di società, essendo adesso una società democratica, non c'è più quel tipo di controllo dell'uomo sulla donna. Certo, il nord è ancora molto arretrato. Tirana è quasi un milione di abitanti e Occidente è sparato nel bene e nel male, più nel male che nel bene in un certo senso, ma almeno c'è la libertà. Per cui ci sono le donne vecchie, sono rimaste le ottantenni, le novantenni che sono ancora lì. E sono struggenti, sono bellissime, perché incastrate appunto in un ruolo che alcune di loro l'hanno cercato e l'hanno voluto e l'hanno preso da giovane, ad altre è stato imposto. Ma quando poi ti parlano dell'amore è una cosa che io non troverò neanche adesso le parole, perché molte di loro dicono del sesso non ne frega niente, ma dell'amore sì. Però abbiamo fatto così e tante di loro, tante di quelle che io ho incontrato, o meglio, dalle 15 che ho incontrate, 14 di loro non lo rimpiangono, perché facevano parte di quel tipo di società, quella era stata la loro gioventù, non era quella del 2016. Quindi per loro il fatto di non aver lavato ogni sera i piedi a tutti gli uomini maschi della famiglia, dal nonno, bisnonno, poi nella famiglia del marito, dallo suocero, da tutti i cognati, il marito, eccetera, le donne e gli uomini mangiavano separatamente, le donne mangiavano i resti quando gli uomini avevano finito, per cui per alcune di loro è stata una grande rivoluzione. E qui mi fermo perché potrebbe diventare lunga. Sì, io ho guardato l'ora e non so quanti minuti abbiamo ancora. Io avrei una domanda, sì. Perché si parla sempre di, a volte, doppia identità delle persone che cambiano paese. Io non credo a questa storia della doppia identità, credo che siamo tutti il frutto della sintesi e della mescolanza e del grande frappè, se posso dire così, di tutte le nostre esperienze, di tutto il nostro background e anche di quello che leggiamo, che abbiamo vissuto, e anche del modo in cui la nostra intelligenza, quella di ognuno di noi, rielabora tutto quello che abbiamo visto. E ti chiedo solo, vorrei chiedere ancora una cosa. E improvvisamente, con Vergine Giurata, cambi lingua e decidi di scrivere in italiano. E questo in un momento in cui in fondo vivi negli Stati Uniti, dove parli la lingua perfettamente, cioè avresti in fondo, sì, potuto decidere di scriverlo in inglese. Allora la mia domanda è: perché in italiano? Ma perché quando sono partita per gli Stati Uniti vivevo in Ticino da 16 anni, era mio marito, è metà svizzero tedesco e metà svizzero italiano, ma è ticinese, attinente di Novazzano, poi anch'io sul passaporto c'è attinente di Novazzano, non c'è scritto neanche nato a Durazzo, Albania, no, okay. Per cui era la lingua di casa, mio figlio che poi l'abbiamo portato in Svizzera appena il regime è cambiato, è un ticinese, più ticinese di tutti noi in un certo senso, adesso ha 35 anni, quindi era la lingua di casa. E lavorando, facendo altri documentari precedenti per la RSI, i testi li avevo scritti in italiano, quindi è la lingua che sogni, poi alla fine è la lingua che fa i conti, è la lingua di tutti i giorni che poco per volta ti entra sotto la pelle. E amavo l'italiano, amavo moltissimo l'italiano, per cui poco per volta, quando cominci a pensare regolarmente nell'altra lingua, erano anni, anche gli editori, anche Feltrinelli, quando pubblicai Sole Bruciato, mi disse, perché poi la traduzione, loro mi affiancarono insieme all'editor, perché chi aveva tradotto una prima parte del libro non era stato tradotto bene, ma mi dico: ma perché non scrivi direttamente in italiano? Solo che la letteratura era una cosa talmente sacra per me, talmente seria, che volevo veramente sentirmi a mio agio. E quando ha fatto qualcosa click, sono state le primissime frasi di Vergine Giurata, quindi ho cominciato a scrivere in italiano e non c'era un ritorno, in un certo senso. Tant'è vero che mi sento anche in colpa, in un certo senso, perché sto finendo il terzo libro, il decimo libro, ma comunque il terzo scritto direttamente in italiano, e ne sto scrivendo anche un altro in albanese, ma con quello in albanese sto facendo fatica, non per la storia, ma perché l'italiano è la lingua che nel frattempo è diventato il mio tutto, perché io ho cominciato a scrivere, avevo cominciato a scrivere a 14 anni in Albania, ma in Albania non ho voluto mai pubblicare, per una questione di ideologia. Loro ti dicevano: hai scritto un libro di poesie, 80% deve essere un inno al partito, al socialismo, al grande leader, e poi 20% potevano essere poesie liriche, così per dire. Quindi l'italiano e il mio essere scrittrice è nato col Ticino, è nato con l'italiano. Io non so, Roic, quanto tempo mi dai ancora? No? 5 minuti, allora 5 minuti, anche 6, grazie. La piccola guerra perfetta. Ho preso 3 libri a caso, avrei potuto scegliere gli altri libri, questi sono i primi che ho letto e che mi hanno un po' appassionato all'inizio. Così. Piccola guerra perfetta è la guerra nel Kosovo, questa ce la ricordiamo tutti, il regime di Milosevic fa una politica impossibile con qualsiasi minoranza, ma non solo con le minoranze, è una politica, una guerra di mafia di fondo, ma è una guerra inspiegabile quella che è successa nella ex Jugoslavia, o perlomeno non spiegabile con dei criteri politici seri. In compenso il Kosovo è sempre stato un grosso punto sensibile anche prima, e a un certo punto toglie al Kosovo le autonomie che aveva il Kosovo, non era una repubblica jugoslava, era una regione autonoma, però toglie le autonomie completamente e comincia anche a fare un massacro. Ricordiamo il regime di Milosevic, era quello che chiedeva i certificati, se non lui, i suoi adepti, i certificati di servitudine, cioè eravamo arrivati a un parossismo nazionalista che non aveva alcun senso neanche per gli abitanti stessi che si trovavano intrappolati quasi da questo regime, no? Si dice che basta che il 20% di qualsiasi popolazione aderisca a un regime totalitario e tutti gli altri sono intrappolati, no? Non possono più fare niente. E però in questa guerra il libro è politico fino a un certo punto, cioè secondo me questo libro parla soprattutto di donne e di come le donne, proprio queste donne che sono le meno citate nelle guerre, se si vuole, vivono in questa guerra, sopravvivono in parte, a volte periscono, ed è un libro veramente a volte difficile, duro, giustamente duro, perché non si può parlarne in modo diluito. Vorrei sapere cosa ti ha spinto, io non sarei mai riuscita a scrivere tutto questo, ed è molto bello, ha delle pagine estremamente belle, le donne sono anche molto forti. Ma in un certo senso è stato il mio tributo alle donne dei Balcani, perché sono la parte più straordinaria della società. Non faccio un discorso di femminismo, di quello quasi becero, estremo, assolutamente. Ma nei Balcani la donna ha sempre sofferto. E nella guerra del Kosovo, che io ho seguito dal Ticino col cuore in gola, quei 78 giorni di bombardamento, ma anche anni precedenti, quando stava andando in un escalation la guerra, scusatemi la parola in inglese, vedevo con tantissima apprensione. Per cui subito dopo la guerra c'è stato un giornale che è stato bruciato poi dal regime di Milosevic in quegli anni, in quei 78 giorni di bombardamenti, ed erano amici miei, io scrivevo per quel giornale, il più grande giornale del Kosovo, straordinario giornale ai tempi. E quindi lo vissi molto male, avevo moltissimi amici nel Kosovo, e quando ho deciso di scrivere il libro, non lo so, forse è stato 4 mesi dopo la guerra, nel dicembre è finita la guerra, in giugno sono stata invitata per la prima volta dalle prime associazioni di donne create in Kosovo, per un altro mio precedente mio libro, e da lì ho toccato in un certo senso, perché il profumo, la puzza della guerra non era ancora uscito, cioè le case erano ancora rovinate, era il nero dappertutto. Quindi tornai da quel momento, avevo accumulato tutto il mio materiale ovviamente, per cui è stata una ricostruzione cronologica di come era andata, però poi sono ritornata più volte, 5 volte in tutto, prima di cominciare a scrivere il libro, perché il racconto delle donne era straordinario, senza nessuna enfasi, tutto quel che avevano patito, tutto quello, una professoressa universitaria dell'Università di Pristina che parte verso il Montenegro, perché la famiglia del marito era di Montenegro, e in quel momento degli 800.000 kosovari cacciati fuori dalle loro terre, durante il percorso lei, suo marito e 2 bambini piccoli, mi era rimasto impresso un suo racconto, dice: la mia angoscia, dove lasciare i bambini durante la notte? Andavano in una casa di fortuna per proseguire poi verso il Montenegro il giorno dopo. Metterli vicino alla finestra, se bombardano di notte, oppure se sparano sulla casa, mi ammazzano i bambini, ma se li metto dall'altra parte e se la casa crolla proprio dalle bombe e io non posso tirar su i figli? E poi l'altra angoscia sua enorme era: se mi stuprano domani, se domani quando usciamo mi stuprano, e per la cultura albanese, per ogni, cioè lo stupro è lo stupro, non, ma soprattutto in quella società. In uno di quei viaggi poi mi portarono al grande orfanotrofio di Pristina, dove erano 1500 bambini orfano di guerra che venivano accuditi da altre madri, non dai loro, perché i loro genitori erano morti durante i bombardamenti o dai massacri dei serbi, da donne stuprate che ormai avevano perso ogni diritto di far crescere i loro figli, perché era un'onta allucinante, buttati fuori dalle loro famiglie, dai loro padri, dai loro mariti, e queste donne, non potendo far crescere i loro figli, andavano ogni giorno all'orfanotrofio e accudivano altri figli di donne morte. Forse è stato quello che mi ha dato la stura per scrivere. Poi non mi interessavano i signori della guerra, non perché non avevano combattuto, ma perché nella guerra nei Balcani, ma ovunque, gli uomini sono quelli che poi prendono i posti importanti, quelli che vengono applauditi come eroi. Le donne con quelle ferite non li prende in considerazione nessuno. Semmai soffrono, subiscono due volte, una volta dallo stupro di guerra, collettivo molto spesso, e poi dopo la guerra sono state trattate in quella maniera. Tant'è vero che poi i signori della guerra non lo presero molto bene perché li tralasciai fuori dal libro, ecco. Mi interessava appunto anche quello che poteva essere un cercare una parvenza di normalità sotto le bombe, cercare una parvenza di normalità in mezzo alla guerra. E le donne kosovare che ho intervistato a centinaia ogni volta che andavo e che mi raccontavano, per esempio, in una freddissima giornata di febbraio, hanno cominciato a parlare alle 3 del pomeriggio, erano 17 donne in una casetta dove 280 uomini del villaggio erano stati massacrati dai serbi, era rimasto soltanto un bambino ed erano soltanto le donne, le quali erano state messe in una stalla e nella scuola del villaggio ed erano state stuprate per una settimana intera. Di qualsiasi fascia d'età, dalle nonne, dalle bisnonne, nonne, fino alle bambine di 10-12 anni. E loro mi raccontavano con questa sobrietà che è molto tipica del nord dell'Albania e del Kosovo, che è un po' diverso dalla nostra enfasi del sud dell'Albania, centro-sud dell'Albania, loro raccontavano tutto quel che avevano passato con questa signorilità, con questa... E per me era importante non piangere davanti a loro. E poi quando hanno finito il racconto, alle 9 di sera, non c'era luce ovviamente, non avevamo riscaldamento ovviamente, io ero diventata un pezzo di ghiaccio e loro che mi hanno detto: ma ci dispiace molto di averti intristita con le nostre storie. Ecco, da lì penso che poi non ho avuto dubbi che quel libro l'avrei scritto. Grazie. Io Grazie penso, forse dobbiamo finire qui perché se abbiamo... passato tutti i limiti della decenza nel tempo, possiamo solo ringraziarti e sperare di averti di nuovo presto, e a voi buon pomeriggio, grazie a tutti.